5. Sugo di carne che i francesi chiamano salsa spagnuola. Questo trovato culinario, dal quale si ottiene il lesso, un umido ed un buon sugo, mi sembra ben indovinato ed economico, imperò che si utilizza ogni cosa e il sugo può servire in tutti quei piatti in cui fa duopo. Prendete 1 chilogrammo, compreso l'osso o la giunta, di carne magra di manzo e da questa levatene grammi 400 tagliata in bracioline. Col resto fate, come di consueto, il brodo con litri 1,5 a buona misura di acqua. Coprite il fondo di una cazzaruola con fettine di lardone e prosciutto e di alcuni pezzetti di burro. Trinciateci sopra una cipolla e su questa collocate distese le braccioline. Quando la carne avrà preso colore a fuoco vivo dalla parte sottostante, bagnatela con un ramaiuolo del detto brodo, poi voltatela onde colorisca anche dall'altra parte e dopo versate un altro ramaiuolo di brodo, indi condite con sale 1 chiodo di garofano, oppure 9 o 10 chicchi di pepe contuso e 1 cucchiaino di zucchero. Versate ora tutto il resto del brodo, aggiungete una carota tagliata a fette e un mazzetto guarnito che può essere composto di prezzemolo, sedano e di qualche altra erba odorosa. Fate bollire adagio per circa 2 ore. Poi levate le braccioline, passate il sugo e digrassatelo. Con questo potete bagnare la zuppa del numero 38 e servitevene per dar sapore ad erbaggi oppure, condensandolo con un intriso di farina, di patate e burro, condire minestre asciutte. La farina di patate si presta meglio di quella di grano per legare qualunque sugo. Sugo di pomodoro. Vi parlerò più avanti della salsa di pomodoro che bisogna distinguere dal sugo, il quale deve essere semplice, e cioè di soli pomodori cotti e passati. Tutt'al più potrete unire ai medesimi qualche pezzetto di sedano e qualche foglia di prezzemolo e di basilico quando crediate questi odori confacenti al bisogno.